Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. Di nuovo in diretta sulla nostra radio, Risto Radio Convento, sulla nostra web radio per essere precisi, e di nuovo in diretta con un bellissimo, nutritissimo, rosiissimo, anche se non si può dire come superlativo, gruppo di amiche che stanno festeggiando una invece bianchissima sposa che andiamo a presentare. Benvenuta! Ciao, ciao a tutti. Come ti chiami? Mi chiamo Jacqueline. Jacqueline, da dove vieni? Da Vicenza, dalla provincia di Vicenza. Dalla provincia di Vicenza, come dicevamo, fuori onda per chi non ci avesse sentito, quindi tutti, visto che era appunto fuori onda, un nome tipicamente vicentino. Beh, mi sembra giusto, dai. Come mai? C'è qualche storia dietro che ci vuoi raccontare? Sì, in realtà mio papà ha trascorso la gioventù in Svizzera e negli anni 60-70 era un nome prettamente in voga. Ah, Svizzera, penso che pensavo Francia. C'ha tipo Costa Azzurra, no? No, invece Svizzera. Sì, cioè Svizzera, esatto. Va forte Jacqueline. Cioè non Hans, ma Jacqueline. Andava forte. Ah, vedi? Sì, esatto. si scoprono tante cose. Beh, però tu sei italianissima. Sì. Sono trasferito qua, ho conosciuto mia mamma e poi quando sono nata io hanno scelto questo nome. Hanno o ha scelto? Hanno. Hanno, esatto. Quindi anche tua mamma sì, si sì, è. Sì. Non è che l'ha imposto perché ha detto no, io... No, ho detto è un bel nome, non è un nome proprio comune. Sì, da ricordare. Esatto. Da ricordare, sì. Bene, sei orgogliosa da come ne parli. Sì, ti molto, piace. Molto. Ma come ti fanno, come ti fai chiamare? Jackie? No, Jackie. In realtà, sì. Bello, sì. Che è già inglesizzato, tra l'altro, esatto, quindi esatto. Prende un po' varie etnie, sì. varie zone. Sì. Bene. Allora, Jacqueline, cosa festeggi stasera con noi? Il mio addio al nubilato. Oh, il tuo addio al nubilato quando? Dici tutto. Il 4 maggio io e Manuel ci sposiamo dopo 13 anni di coppia. No, di coppia. No, mi stavo aspettando una roba tipo tira e molla o di lotte interne. No, di coppia. 13 di anni. Coppia. E 13 anni è tanto. Mi ha fatto penare sto tipo. T'ha fatto penare? In che senso? Ho dovuto aspettare tanto. Ah, beh, per renderlo ufficiale. Esatto. Beh, ma te l'ha chiesto lui almeno? Sì, me l'ha chiesto lui. E come? Cioè, preso per sfinimento e detto va bene, Jacqueline, ok. Cioè, di solito la proposta di matrimonio è molto romantica, la proposta di Manuel è stata ok, Jacqueline, sposiamoci, basta. È stata così, vedi, abbiamo già intuito. No, dai, sarà stato un qualcosa di speciale. Sì, dai, è stata una bella sorpresa perché in realtà non me l'aspettavo, ne parlavamo da un po' e mm-hmm. anche comunque dopo un po' di anni di convivenza, però... Ci si pensa, insomma, ci sta, esatto, ci si pensi, sì, sì, quindi sì. Vivete già insieme. Sì, da 6 anni. Oh, vabbè, praticamente metà del rapporto l'avete esatto. passato in casa insieme, quindi esatto, ci sta. Sì. Quindi dai, com'è stata? Ci vuoi raccontare? Mi ha lasciato un pacchettino sopra il... mi ha lasciato, mi sono fatto 2000 film... Mi ha lasciato, poi ha fatto finta, mi ha ripreso e mi ha chiesto di sposa. Però sarebbe stato originale, cioè lasciarti e poi un minuto dopo chiederti di sposarlo. Esatto. Sarebbe stato originale, quindi niente, scusa, torno alla realtà e abbandono il mio film. Quindi no, ti ha lasciato? Mi ha lasciato il pacchettino sopra al letto, al cuscino del letto. Ok. E la sera prima di andare a letto ho visto questo pacchetto e l'ho aperto e da lì poi è stato tutto... Esatto. non entriamo nei particolari. Ma il pacchettino cos'era? L'anello? No, un braccialetto in realtà, è stato molto originale anche su questo. Poi è arrivato anche l'anello, okay. Però è arrivato un bracciale con un cuore, una frase e l'anello praticamente diverso dal solito, originale. Ah, ma non c'era un biglietto, non c'era niente? C'era un biglietto all'interno del bracciale. Ah, ok. Sì, una frase tipo d'amore. Okay. Beh, però nulla che facesse pensare alla proposta. Beh, no, si capiva. Ah, si capiva. Sì. Bene, allora, bravo Manuel. Bravo Manuel. E poi dicevamo delle tue amiche in rosa. Coloratissime, ci vuoi dire chi c'è qui con te stasera? Certo, qui vicino a me c'è la mia testimone, Denia. Ok. Poi c'è Deborah, mia cugina Valentina e Vanessa. E Vanessa, beh, 2D e 2V praticamente, hai visto? Ho visto. 2D e 2V, quindi... Non ci avevo pensato. Esatto, e questo vuol dire che se volete essere amiche di Jacqueline dovrete almeno trovarvi un'altra che si chiami con la stessa vostra iniziale, se no non potete entrare a far parte del gruppo. E soprattutto dovete entrare in coppia, nel senso che non è che vi chiamate Sara e puoi entrare da sola, deve esserci almeno un'altra con la S. Infatti loro vanno in giro sempre pari, sempre, tranne lei che giustamente si distingue con la J, perché voglio vedere l'unica è Jessica, esatto. Sono infatti l'unico caso di donne che vanno in bagno insieme per lettera. Ovvio. Cioè loro vanno in bagno insieme solo per lettera. In che senso? Andare in coppia sul bere. Ah, perché sono andati in coppia sul bere. Ah, io pensavo che fosse solo il bagno da condividere, no? Quindi, e quindi ordinate anche gli stessi cocktail. Ah, bello, bello, vedi, è una, praticamente una unione civile, civile di intenti e di passioni. Bello, bello, ci fa piacere. E cosa fate a Vicenza di bello? Come passate il vostro tempo libero, le vostre serate? Sì. Facciamo feste, lavoriamo tanto. Esatto. Vita normale, sì, vita normale, vita normale. Ok, ok. Stressata, ma dopo nel weekend ci riesco. Sì, quella un po' meno come tutti. E Jacqueline, vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare qualcuno? Insomma, hai un microfono, se vuoi approfittarne. Voglio salutare Manuel, che sicuramente sarà non so dove, a casa, forse a dormire. E voglio approfittare per ringraziare queste quattro matte, soprattutto lei, sì, che mi avete organizzato una festa meravigliosa, bellissima, e veramente mi sono divertita un sacco. Bene, questo è quello che conta, benissimo. Allora, grazie a voi, grazie ovviamente a Jacqueline, la nostra futura sposa, e niente, in bocca al lupo allora per questa bella data che immagini e speri e pianifichi anche, credo, da tanto. E quindi ci sta che ve la godiate a dovere. Andrete a farvi un giro, andrete a fare un bel viaggio? Sì, andiamo in crociera e 12 giorni. No, 12 giorni, sì. Quindi poco stress. Esatto. Anche dal punto di vista organizzativo, nulla di impegnativo. Sì, esatto, facciamo esatto. fare agli altri, facciamo Bravo, fare agli esatto. altri. Crociera dove? Sì. Fiordi. No, facciamo le Canarie. Che Canarie? Di solito vanno forti i fiordi sul. Sarebbe stato figo. Fiordi sul come questo. Ah, ok, lui è, scusate, il nostro inserviente delle pulizie stava passando per dare una resettata ai vetri. Sì, ma infatti non sapete, l'ho soprannominato Vetril, il nostro amico. Soprannominato Vetril, perché insomma ha un modo di illustrare. Il pesce pulitore! Sì, esatto, il pesce pulitore. Tra l'altro, lui viene qui tutti i sabati e si propone per andare negli acquari delle persone. Sì, lui proprio si propone, il suo lavoro è andare negli acquari delle persone a fare il pesce pulito. È un bel. Ascolta, so che sei eccitatissima, però calma. Cioè la ragazza, la testimone. Testimone si è eccitata tantissimo. Purtroppo. Cioè, sì, anche. Esatto, purtroppo questo è. Lei è colpitissima, sa che non va a casa sola, stasera è rimasta affascinata dal pesce pulitore. Esatto, dal pesce pulitore. Grazie. Vedi, ma te l'ho detto, lui viene qui a proporsi, lui proprio viene qui a cercare occupazione come pesce pulitore negli acquari della gente. È bello. Affittiamo. Affittalo. Ma lui ci offre anche a meno. Comunque deve, insomma, per promuovere il lavoro in tempi di crisi fa anche dei buoni prezzi, informatevi. Grazie mille allora ragazze, buona fine festa, avete ancora un po' di tempo per ballare e divertirvi se vi va. Grazie. Grazie ancora, in bocca al lupo e auguri alla nostra Jacqueline. Grazie mille.